Tempo di sport con Carlo Genta. Dunque, qui non nevica in questo studio, nemmeno di là dal vetro dove c'è Giorgio Di Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Qui siamo con Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, neanche di qua del tavolo nevica. Nemmeno da quella parte del tavolo nevica, però grandissima giornata per la neve azzurra con Daniele Merighetti che vince la discesa libera di Cortina davanti a quel mostro di bravura, perché è una donna meravigliosa, di Linza Yvonne. C'è Innerhofer che a Wengen arriva terzo, gara vinta da Foyth. Ora è stata battuta la notizia di Alessandro Pittin che ieri ha conquistato una medaglia d'oro storica, perché è la prima volta che succede nella sua disciplina combinata. Trampolino pazzesco. E fondo. Sì, pazzesco. Ieri prima volta, primo podio. E oggi bis, sempre a Châteauneuf, notizia battuta ora, gara finita da poco. Nella prova individuale Pittin ha di nuovo vinto in Coppa del Mondo di combinata nordica. E poi, pensa un po', in una Milano che aspetta il derby, ci sono i mostri sacri del fondo al parco. Io ieri giravo, come faccio sempre per Milano, in bicicletta, che è molto comodo, una bellissima giornata di sole come Milano si sta regalando in quest'ultima settimana. E com'era anche oggi. Non nevica, nemmeno a Milano nevica, fuori dai vetri. Devo raggiungere due luoghi in bicicletta e ho detto, guarda che settaglio per Parco Sempione più corta. Mi infilo dentro e vedo questa striscia di neve, mannaggia cos'è, roba sintetica, polistirolo. Invece stavano costruendo questa magnifica pista, questo anello molto bello all'interno, con una serie di connotazioni delle quali potremmo parlare magari. O ci potrà parlare Dario Ricci, che è lì, non in montagna, ma a Parco Sempione. Ciao Dario. Eccoci qua Carlo, ciao Andrea. Partiamo subito, una piccola sorpresa: c'è un omaggio musicale da parte del fan club di Federico Pellegrino, uno dei grandi azzurri, oggi in gara. Purtroppo la sua gara si è fermata alle semifinali, però i suoi tifosi fanno un omaggio musicale in diretta per Radio 24, una bella strombettata. Sentiamo un po'. Eccoci qua, eccoci. Grandissimi qua. Un applauso anche da qua. Applausi da studio, tanto per raccontarvi il clima che c'è con questi simpaticissimi tifosi, tra l'altro con tanto di parrucca tricolore. Ecco, gli rubiamo pure una battuta. Da dove venite, ragazzi? Da Nus, Valle d'Aosta. Oggi Federico è stato bravo, però non è bastato per vincere. È stato un grande, questa non è una sua stagione fortunata, comunque con la preparazione che ha avuto quest'anno questo risultato era inesperato, è stato un mito. Senti, ti ha divertito questa neve a Milano? Bello, Parco Sempione, il Castello Sforzesco, noi siamo abituati alle montagne, ma comunque uno sfondo fantastico, siete stati bravi, bello. Bene, poi tra l'altro domani si fa il bis perché c'è la gara a squadre, io sto attraversando il Castello Sforzesco, alle mie spalle l'Arco della Pace, i ragazzi adesso vanno in centro a fare un po' di shopping per via Monte Napoleone, insomma, paesaggio inconsueto, ma direi scelta logistica azzeccata, malgrado le polemiche della vigilia, rischi per l'ecosistema del Parco Sempione da parte degli ambientalisti, proteste dei comitati di quartiere, direi che è tutto in ordine, tutto sano e salvo, si può fare sport anche nel cuore di Milano, questa è la sorpresa. Si può fare sci di fondo anche nel cuore di Milano, sebbene quest'anno la neve non si sia vista. Vuoi chiedere qualcosa, Andrea? No, ti ha fatto i complimenti, ti ha fatto, bravo. Quanta neve hai spalato in questi giorni, visto che sembravi un organizzatore? Ognuno, io ne ho portata un po' da casa, dalla ghiacciaia, dal freezer. Ne ho preso la metro gialla, 5 fermate, qualcosina ho portato pure io, però per il resto hanno dovuto far loro con i camion, gli organizzatori, la neve dalle valli bergamasche. Tra l'altro ne parlavo con Bubu Albusa, il grande campione olimpico, oggi commentatore di Eurosport, che ha detto che rispetto anche a quello che si vede in città più abituate ad ospitare prove di questo tipo Düsseldorf, Mosca, Stoccolma, dice il fondo in questa occasione sta reggendo meglio, è stato preparato meglio, quindi insomma vuol dire che quantomeno, detto da un esperto, e le conoscenze giuste per affrontare in modo ecosostenibile e anche tecnicamente valido questo percorso sembra siano state messe in campo, insomma. Perfetto, grazie Dario, non prendere grazie troppo freddo, non prendere no, troppo no. Freddo. Adesso vado subito a recuperare una grolla e buon divertimento e grazie per la strombazzata, mi ha fatto tornare militare quando mi svegliavo nel mattino. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire a questa trasmissione. Abbiamo aperto sulla neve come doveroso, ma anche perché può essere un tema più vasto che tra poco vorrei approfondire anche con Andrea Zorzi, che mi raccontava che anche ad esempio il beach volley ormai sulle spiagge non si gioca più. Poi parleremo anche della Milano, che non solo guarda gli sciatori ma aspetta soprattutto il derby. Senti questo messaggio, Andrea, 349-238-6666. Papi, Adriano mi ha venduto il fidanzato per un bidone argentino, fallo ragionare. Tranquilla Bibi, che pensi me, di rotto il bidone sull'altra sponda milanese, il pesce massimo abboccherà sicuramente. E poi l'ascoltatore Lucio da Vigevano, che ha scritto questo, aggiunge: ecco, da interista mi seccherebbe che Tevez arrivasse all'Inter, ma dove lo vedete tutta questa classe? Uno dei temi della settimana, uno dei grandi temi settimanali. Che ha avuto un'improvvisa svolta alla fine, quando sembrava che fosse tutto quasi deciso. Pato che lascia Milanello, pronto ad andare all'aeroporto per volare a Parigi tra le braccia di Leonardo e di Ancelotti. Arriva Berlusconi, non si fa più niente. E poi ognuno la pensa come vuole. E perché è il papero genero, e perché non so, ognuno aggiunge i suoi motivi. E Galliani dimostra perché è veramente un grande, sta facendo un'operazione straordinaria. No, ma sono contento che rimanga. Mi fa piacere, guarda. 800240024, mio punto di vista, al Milan e ai milanisti è andata bene così. Io mai avrei ceduto Pato, 22 anni, giocatore straordinario al di là degli infortuni, della discontinuità se volete, per Carlitos Tevez, che di anni ne ha 27, va per i 28 se non ricordo male, ma è così, e che è un giocatore dal mio punto di vista molto forte, ma anche molto sopravvalutato, e certamente un giocatore dalla testa caliente. Ne parleremo dopo, anche perché abbiamo ospiti a riguardo, però Andrea, dicevamo della neve a Milano e della sabbia nelle grandi città. In pratica portiamo i grandi campioni dello sport fuori dalla loro sede naturale. Allora, come la vedi? In alcuni casi è un'esperienza straordinaria. Mi viene in mente il mondiale di scherma a Parigi di un paio d'anni fa, in cui fecero questa manifestazione in un palazzo storico di Parigi ed era bellissimo, al di là delle foto veramente suggestive. Mi piace l'idea di portare ogni tanto alcuni sport che nascono in alcuni contesti naturali di un certo tipo, farli vedere anche da altre parti. Però conosco bene la storia del beach, nasce nelle spiagge naturalmente. Attualmente, da qualche anno a questa parte, tra le tappe del World Tour sono tutte nelle grandi città, perché è più interessante per il pubblico, per gli sponsor e via dicendo. C'è addirittura un protocollo per la scelta della sabbia, che deve essere di un certo tipo, ed è per esempio sabbia di fiume, non quella di mare, perché la dimensione dei grani, la dimensione, il tipo di come si affonda è importante. Funziona, sì, funziona, diciamo che c'è l'occasione per un sacco di pubblico. Io anche lì metterei un limite. A Milano è bellissimo, Parco Sempione, a vedere lo sci, però ieri c'erano i turisti che facevano le foto con la neve a fianco. E quindi insomma, una riflessione. Lo sci proprio connotato naturalmente dal punto di vista naturale, dalle montagne, dai luoghi in cui la neve è presente. La trovo un'operazione molto bella, molto divertente, pochino forzata forse in questo caso. Suggestiva, la domanda è cosa lascia, cosa cambia. Sicuramente oggi e domani sono due bellissimi giorni, due giorni in cui si vede qualcosa di particolare, anche di molto bello a Milano. Guardandolo in una cornice, in un'ottica un po' più grande, magari va valutato. Sì, poi io sono dell'idea che comunque, insomma, prima ne parlavamo, qualche anno fa è stato fatto l'esperimento del portare la scherma, le grandi campionesse della scherma italiana, da Bezzali, Granbassi, Trillini, tutte quante, in giro per Milano erano state allestite per questa esibizione. Di recente abbiamo avuto il caso delle sorelle Williams contro Pennette Schiavone, che ha riempito il forum, no? Per una esibizione. Però attenzione, non possiamo mettere allo stesso piano l'idea di un grande campione che viene messo in un luogo pubblico per permettere a tutti di poter apprezzare le sue qualità, rispetto all'organizzare un evento che nasce in alcuni spazi perché ha quelle caratteristiche e poi viene trasportato in un altro luogo. Quindi se si fa una pedana in Piazza Duomo e si fa fare un incontro a Vezzali, mi sembra una grande occasione, è un palco come un concerto. Sì. Fare un campo di beach volley in centro Milano si è fatto molte volte. Sì. Fare la pista di sci di fondo è un impegno logistico un po' superiore, certo. Quindi va valutato con modalità un po' diverse. Non è una notizia banalissima quella che segnala un ascoltatore con il mio Hellas Verona, scrive l'ascoltatore che non si firma all'Olimpico di Roma con 2800 tifosi al seguito, è stata un'ottima notizia, certamente. Ne approfitto per dare anche i risultati della Serie B per la cronaca di oggi pomeriggio. Gubbio batte Grosseto, Albinoleff e Cittadella 1-1, Gubbio batte Grosseto 4-0, Juve Stabia batte Empoli 3-1, il Livorno batte 2-1, il Crotone 3-3 tra Modena e Regina, il Sassuolo ha vinto ieri sera a Nocera 1-0. La Sampdoria, dopo tantissime contestazioni, anche eccessive, se vogliamo, anzi certamente eccessive, ha vinto 2-1 a Padova e quindi respira la Sampdoria e Iachini sulla panchina della Sampdoria. Pescara-Verona 0-0, Torino batte Ascoli 2-1, il Bari vince 2-0 a Varese e il Brescia 1-0 a Vicenza. Il Torino continua a comandare la classifica 45 contro i 43 del Sassuolo e i 41 del Verona. Dunque parlavamo di sport e luoghi di sport. Torno al discorso, secondo me è opportuno, parlavamo anche di piscine, no? Che sono un esempio classico della... Insomma, di... Il primo tentativo, ormai questo risale a parecchio tempo fa, in cui se non c'è il mare... Di portare condizioni ambientali differenti. Se non, no? C'è il lago, se non c'è il fiume, ma mi piace nuotare, faccio la piscina. Altro, le pareti di free climbing che si spostano velocemente, sono sia all'aperto nelle scuole ma anche nelle palestre. Poi che altri esempi ci sono di tentativi di fare sì che alcuni sport che nascono in condizioni specifiche possano essere giocati anche in ambienti diversi, in alcuni casi quelli urbani. È una domanda che potremmo rivolgere e chiedere aiuto anche dei radioascoltatori, se vi viene in mente darci una mano. Però il beach è nato in spiaggia e si gioca in città. Sì. Lo sci continua a farsi in montagna, ma si può fare anche in città. Tutti quelli in realtà che vengono fatti negli spazi indoor possono essere talvolta fatti anche all'aperto, però qui non c'è, come dire, nessun tipo di necessaria organizzazione troppo complessa. Ah, mi viene in mente quella delle motocross. Sì, qualche volta esatto, viene fatto nei palazzetti. L'hockey su ghiaccio, le piste di ghiaccio in città sono abbastanza comuni, però anche questo è, come dire, un intervento artificiale per creare le condizioni per fare qualcosa che non si farebbe. E poi chissà quant'altra roba c'è ancora. Magari ce lo dicono gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Naturalmente Pescara e Verona saranno 0-0 fino a lunedì sera verso le 11, no? Perché la partita, ho dato il risultato di una gara che si giocherà in realtà lunedì sera, posticipo 20:45, ma perdonatemi, perdo i conti anch'io tra anticipi, posticipi, posticipi dei posticipi. Ad esempio oggi c'è una partita sola, questa sera alle 20:45 Catania-Roma, perché poi c'è il Napoli lunedì sera, abbiate pazienza, Carlo, se perdo i conti. Diciamolo chiaramente, si tratta di calcio giocato, quindi in quanto tale conta poco. Voglio dire, Pato va ceduto a prescindere dalla riconferma di Allegri, perché il papero è sempre rotto e se si rompe al Milan vuol dire che è congenitamente difettoso, scrive un ascoltatore. Mi sembra tanta roba. Sì, sì, decisamente. Non so cosa voglia dire invece Maurizio da Messina. Buonasera. Buonasera. Dica. Intanto io voglio dire una cosa spassionata a voi, che è un piacere sentirvi parlare veramente. Grazie. Dopodiché, a proposito di Pato e Terezzi, ci ho pensato tanto in questo periodo. A me pare un'operazione assolutamente folle, se non è giustificata da sole finalità di carattere economico-finanziario. Solo che, a parte, diciamo, la questione Allegri, che può essere più o meno incompatibile con Pato. Ora, la mia domanda è questa: ma come può un allenatore come Allegri, che dovrebbe essere un allenatore che guarda nel lungo periodo, comunque accettare un Tevez in alternativa a Pato che non utilizza, cioè con quale ottica prospettica, sia in termini di spogliatoio che in termini di proprio programmazione di medio se non lungo periodo. Cioè non vedo che sia un giocatore che può avere una prospettiva paragonabile minimamente a Pato, indipendentemente dall'incompatibilità tattica. Ma questo, cioè comunque Tevez è un giocatore ancora giovane, no? 27 va per i 28, è certamente un giocatore che può essere messo all'interno di un progetto, non è un 35enne. È chiaro che anche a me sembra, insomma, per un grande club sembra bizzarro cedere un giocatore che ha 22 anni e che ha un talento ancora in gran parte inesplorato come Pato, al di là dei niet che sono arrivati da fonti presidenziali. Tanto adesso abbiamo un ospite che ci spiega tutto, sai? Alessandra Bocci, inviata della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandra, grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ma tu cambieresti Pato con Tevez o Tevez con Pato? Insomma, io non vado particolarmente pazza di Tevez, ma non sono così innamorata di Pato. Cioè, non, il problema non è Pato, il problema è che non credo si possa fare soltanto un discorso sull'età. Pato ha 22 anni, siamo d'accordo, ma è anche al Milan da 4 anni, quindi io credo che se la società, se qualcuno immagina che sia il caso di privarsene per prendere un altro giocatore, immagino che sia perché hanno capito che magari ci sono delle cose che possono migliorare e delle altre cose no. Ho visto nei giorni scorsi, parlo ovviamente a titolo totalmente personale, anche dei colleghi del mio giornale che hanno fatto un paragone con Titi Henry e con altri, con Balotelli, eccetera. Allora, Balotelli a me piace molto, però non mi pare che finora il Manchester City abbia fatto sfracelli, no? Quindi sì, evidentemente anch'io sono dell'idea che non è stata una grandissima mossa cederlo, però magari l'Inter, che ne so, qualcosa vincerà, e il Manchester City per ora mi sembra ancora abbastanza al palo, no? Nonostante sì, Balotelli. Andiamo a vedere le cose. La Juventus ha ceduto Henry e non è la stessa situazione di Pato, perché Henry era stato poco tempo alla Juventus, quindi forse in quel caso non era stato valutato bene, non lo so. Poi io credo che ogni giocatore abbia un suo posto. Magari Henry, che rimanendo alla Juve 3 anni non avrebbe raggiunto dei grossi risultati, è andato all'Arsenal, ha fatto la storia dell'Arsenal. Sì. Ogni giocatore ha un suo posto, ha una sua storia, così come ogni persona. Si tratta di cascare nel posto giusto al momento giusto. Per esempio, io sono sempre rimasto convinto che un giocatore come Dennis Bergkamp fosse capitato in quegli anni al Milan, avrebbe fatto un'altra carriera. Io non dico per esempio, niente, perché sono nota per essere totalmente innamorata del calcio olandese, e quindi se dico qualcosa poi sono sempre di parte, per cui. Però insomma Bergkamp è stato un giocatore ampiamente sottovalutato in Italia, ma lì c'è anche una questione secondo me di ambiente, di situazione. I giocatori olandesi secondo me non si trovano benissimo qua, perché il nostro modo di vivere le cose è completamente diverso. Allora o sei uno come Wesley Sneijder, che secondo me sta bene anche con i pinguini al Polo Sud, oppure è difficile. Insomma, venendo alla domanda dell'ascoltatore, io credo che non sia un peccato cedere Pato. Può succedere, insomma, voglio dire, il mio parere è che non stiamo parlando di Messi, stiamo parlando di Pato, un grandissimo attaccante, però può darsi che magari non lo so, magari anche per lui stesso, magari se finisce in un'altra squadra esplode, sì, può essere un'idea che va bene per il club, per la sua storia, per gli altri giocatori. Non è un mistero che Pato e Ibrahimovic insieme non siano, diciamo, la coppia perfetta. Non sia la coppia perfetta anche caratterialmente. Andrea Zozzi, vuoi chiedere qualcosa ad Alessandra? Sì, mi viene in mente il fatto che accade che ci sono alcuni atleti giovani di grande talento che però non mostrano uno sviluppo, un progresso costante, che mettono nei guai i dirigenti e gli allenatori. Perché effettivamente se tu vendi Pato e questo esplode, com'è possibilissimo, dici allora non ci ho capito nulla. In realtà da qualche anno al Milan non sanno più che santo attaccarsi per fare in modo che Pato cambi la sua marcia. Quindi mi sa che il problema è legato al fatto che, secondo me, Gagliani innanzitutto, ma anche Allegri, dicono: dunque, siamo di fronte a un grande rischio. Se per caso lo vendiamo e questo diventa forte, facciamo la figura dei cetrioli. Sì. Nel caso Tevez, io sono convinto, credo che ci sia anche un problema proprio di immagine. In questo tempo si è parlato sempre di Gagliani, sempre del Milan, sempre di Tevez, e al di là del valore vero di Tevez, globalmente il Milan esce avvalorato perché sono bravi. Sì, ha cercato comunque di prendere un grande giocatore senza avere molti quattrini in tasca. Sì, quindi senza Gagliani allenarsi, poi non ci sono riusciti, si sono ritirati in buon ordine. Ecco, mi è venuto in mente un paragone, forse voi sarete d'accordo con me, forse mi pensate che sono pazza. Pato mi ricorda moltissimo Andy Murray, che è un tennista che a me personalmente piace da morire, però è uno che quando arriva il momento ti dà sempre l'idea che c'è qualcosa, qualche ingranaggio che non funziona come dovrebbe. Poi mi si può dire: Pato ha segnato al Barcellona, benissimo, però non si può neanche a tennis si gioca da soli, a calcio si gioca in 11, quindi sostanzialmente io penso che un allenatore che deve decidere se dare maggior peso o sistemare la squadra più per Pato o più per Ibrahimovic, immaginando ipoteticamente che ci sia questo dualismo, è portato anche inconsciamente a sistemarla un po' più per Ibrahimovic, perché sì, Ibrahimovic è un dimostrato atleta che ti fa vincere. Sì, sì, che incide in maniera molto maggiore su un maggior numero, sì, di, sì, partite. Sì, sì, questo è il problema. Questo è in dubbio. Andrea, dicevi? No, mi viene in mente, a me piace molto questa idea dei grandi talenti, giovani che sembrano sempre pronti per esplodere. E gli manca un centesimo per fare la linea. E gli manca un centesimo. Nel caso di Murray è vero che forse potrebbe fare ancora di più, però insomma è piuttosto in alto nella classifica mondiale, quindi questo depone a suo favore. Poi magari ha dei mezzi per poter diventare il dominatore e non lo sta facendo. Mi viene in mente nel caso della pallavolo un giocatore di cui si è parlato moltissimo, Matteo Martino, che da molti anni sembra essere quello che diventa il grandissimo campione. Ha cambiato 5, 6, 7 società e tutte le volte sembrava che il nuovo allenatore avesse in qualche modo la convinzione di aver capito come ottenere il massimo da quel ragazzo, che però ha rimesso in atto i soliti meccanismi. Accennava giustamente Alessandra, non dimentichiamo che parliamo di sport di squadra e quindi da solo non fai quasi nulla, sì, a parte Ibrahimovic. Il tuo atteggiamento, la tua determinazione è importante perché devi contare su un gruppo di persone, certo, che insieme con te provano a vincere. Certo. Alessandra, un'ultima cosa, un'ultima domanda inevitabile, considerazione inevitabile: lo sfondo rosa quanto ha contato nella vicenda Pato? Scusa, no, lo sfondo zero. Rosa, cioè no, il risvolto zero, rosa. Guarda, zero. Ma questo io, queste sono le fonti, diciamo, ufficiose, perché sì, poi la ragazza, la signora, non, perché comunque mamma di due figli, non ha parlato. Ma io sono sicura che non abbia contato per un motivo molto semplice, che per loro sarebbe stato molto più facile. Mm. Non avrebbero più avuto la possibilità che qualcuno nello spogliatoio avesse da ridire, non avrebbero più avuto imbarazzi col papà, l'allenatore, l'amministratore delegato. Lei avrebbe potuto fare il suo lavoro di, diciamo, studente manager, apprendista manager al Milan, e lui il suo lavoro è calciatore. La signora in questione poi non ha problemi di soldi per fare dei voli a Parigi, neanche il ragazzo in questione, insomma, neanche il ragazzo in questione. Quindi credo che no, questo non abbia. Secondo me la cosa fondamentale è stata che probabilmente Berlusconi ha considerato forse antieconomico l'affare, perché come la maggior parte dei tifosi mi sembra che faccia, ha considerato sì la classe, diciamo, in sé per sé dei giocatori, il talento potenziale e l'età, e quindi quando fai queste valutazioni perdi di vista magari poi tutto un altro insieme di cose. Grazie Alessandra, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Grazie, ciao, alla prossima, serata. Abbraccio. Ciao. E per restare sullo stile collezione Harmony, parlavi di sfondo rosa. Sì. Quale scenario migliore che una Parigi per una bella storia d'amore? No, ma chiaro. No, la cosa che non mi torna è che, insomma, Galliani va lì a fare il diavolo a quattro, bravissimo, no? Costruisce questo castello di carte sul tavolo del Paris Saint-Germain. Si prende anche un po' gioco di Moratti. Del Manchester City si prende un po' gioco di Moratti, insomma, parla di offerta creativa, quindi proprio da tutto, no? Da veramente tutto, da grande manager, da grande, insomma, dirigente qual è. E poi questo castello di carte arriva a Berlusconi, crolla tutto, non lo voglio più. Sono contento che Pato rimane. Fabrizio da Milano e Corrado da Napoli, mi scuso, sono già in linea, adesso dobbiamo fermarci un attimo, ma vogliono rispondere alle nostre domande sui luoghi così grandi, con cose interessanti. Cosa tra l'altro dimenticato. Ci sono anche ascoltatori, abbiamo dimenticato questo. Michele da Bologna: cari signori, vi siete scordati il più vecchio sport in città, la Formula 1. Bravo. Bravissimo. Ci avevo pensato prima, E poi un altro ascoltatore che sottolinea come una delle grandi, insomma, delle grandi novità dell'anno, una delle grandi idee dell'anno, molto charmant, molto clamorosa, fu l'apertura del campionato NCAA sulla porta aerei. Te ricordi? No. Partita di basket, quella dove c'era anche Obama. Beh, adesso ci fermiamo così ti racconto tutto. Volentieri. Caro Andrea Zorzi, subito la palla agli ascoltatori, mentre segnaliamo il messaggio di Francesca. Torno ora da Parco Sempione dove ho fatto la volontaria. Certo non era Lillehammer, ma l'atmosfera è stata bella. Un caro saluto ad Andrea, per il quale ho stratifato da ragazzina. Poi ti chiedo anche qual è il luogo più strano in cui hai giocato a pallavolo. Però prima Corrado da Napoli e Roberto da Milano. Corrado, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Contesti strani avete chiesto. Sì. Io ho visto il canottaggio nella reggia di Caserta, in una delle vasche. Bello. E com'era? È bellissimo. Un po' strettina. È un po' strettina, infatti gli atleti, però gli atleti si esaltavano perché la vasca è corta, saranno 250 metri, e per loro è giusto la partenza, insomma. Quindi era bello per loro. Facevano giusto dei race tra due barche soltanto. Sì. E un'esibizione, naturalmente. Naturalmente, un'esibizione. Sì, certo. Ma ci sono foto di questo evento? non so se ci siano foto, era una cosa organizzata dal comune di Caserta con Davide Tizzano. Ti ricordi il periodo? Circa una decina d'anni fa. Ok. Proveremo a guardare. Questa non la sapevo. Grazie Corrado. Questa è veramente bella. Buonasera. Ci credo. Grazie Corrado. Roberto, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Intervenivo su un'affermazione di Zordi che trovo sicuramente interessante e corretta. Alcuni eventi hanno la propria cornice, poi spostati in città sono sicuramente emozionanti e lasciano anche un indotto alla città, sicuramente, ma limitato magari quei uno o due giorni di manifestazione. Credo però poi ce ne siano altri che hanno portato in città, tipo l'evento del tennis con le Williams. Sì. Portino poi un indotto molto più ampio, spingendo giovani, anche meno giovani, poi a avvicinarsi a quello sport, quindi frequentando le palestre, quindi un indotto molto più lungo, una visione molto più lunga del. Ma lei crede anche soltanto per un'esibizione di questo tipo, crede davvero possa esserci un effetto volano così ampio? Io credo che sia una questione un po' di spettacolo, di curiosità, perché è evidente che insomma una città come Milano non vede tennis di questo livello praticamente mai, quindi non so se davvero un'esibizione possa portare così tanto. Io credo che ne abbiamo parlato in un'altra occasione. A me l'idea del grande evento inteso come punta dell'iceberg che attrae l'attenzione piace molto. Sì. Il problema è che se è la punta dell'iceberg, chi organizza? Le istituzioni devono pensare a come rendere fertile quell'occasione. Sì. Se tu organizzi solo la partita di tennis delle Williams, solo la gara di fondo a Milano, ma non hai in qualche modo preparato il terreno, non hai reso accessibile lo sport, rimane un grande evento che dopo qualche giorno tende a finire. Invece, se tu hai organizzato bene, con le scuole, con le società sportive, con il territorio, lavori bene, quella è l'occasione per portare grande attenzione. Sì. Entrambi gli aspetti sono decisivi. Senti Andrea, qual è il luogo più strano in cui hai giocato a pallavolo? Più strano non lo so, mentre ne parlavi molto in mente, quando ero ragazzino, 18enne, abbiamo fatto una partita di pallavolo al centro del campo di San Siro, un piccolo rettangolino in mezzo al grande rettangolo, prima di Inter-Fiorentina. Sì. C'erano già 60.000 spettatori che arrivavano naturalmente aspettando la partita, noi si giocava mentre lo speaker diceva le formazioni, e ricordo che c'era Socrates, grande giocatore brasiliano che è morto di recente, poco tempo fa. Nel secondo tempo arrivò trotterellando con la sua tipica andatura, un po' in ritardo anche, fischiatissimo dai tifosi dell'Inter e anche della Fiorentina. Della partita ricordo poco, ricordo però un po' l'imbarazzo, come dire, di essere lì un po' come se fossimo dei riempitivi, delle soubrette, no, perché non abbiamo il fisico delle soubrette, però anche qui, neanche delle pom-pom girls, anche qui ho qualche perplessità su quanto sia utile per alcuni sport minori andare a farsi vedere in un luogo nel quale non c'è veramente minimo interesse da parte di chi è lì per vedere un altro spettacolo. Sì. Come si chiamano i gruppi che aprono i grandi concerti? Sì, gruppi spalla. I gruppi spalla. Lì almeno si parla di musica, si avvicina, si prepara l'ingresso del grande cantante. Nel caso di questi eventi collaterali che vengono considerati di successo solo perché hai fatto vedere a tanta gente uno sport che di solito non è visto da molte persone, non me la sento di definirlo evento di successo. Sono d'accordo, ma la tua sensazione quale fu? Nel giocare a San Siro, cioè, ero preoccupato perché si vedeva poco la palla, si scivolava sull'erba, si giocava malino, si faceva un po' una figuraccia e quindi era un po' così. Molto più interessante due anni fa quando si andava in Terra Santa a Gerusalemme, la nazionale italiana di pallavolo femminile juniores ha fatto una piccola partita nel piazzale che c'è vicino al muro che divide Betlemme da Gerusalemme contro una selezione di ragazze israeliane, giordane e palestinese. Hanno giocato sull'asfalto con una rete, però a quel punto l'idea è così simbolico il luogo che davvero il livello della partita è in secondo piano. Quello di San Siro non mi ha lasciato un ricordo così straordinario, se non il piacere di essere lì a vedere San Siro da dentro, sul terreno di gioco, tanti anni fa. E Socrates che arriva di noccolato. Sì. Marco, buonasera. Buonasera. Però mi perdoni perché devo rispettare le priorità e le precedenze. Prima c'è Andrea, tutte e due chiamate da Milano. Andrea, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica tutto. Brevissimo. Prego. Innanzitutto volevo fargli i complimenti a lei come conduttore, perché è un conduttore veramente arguto. Grazie, grazie. Bravo Carlo. No, ma andiamo al sodo, Andrea. E poi un attimo il mitico Zorzi, che mi sono appassionato di pallavolo grazie a lui, qualche anno fa, diciamo qualche annetto fa. Pensi quanti danni ha fatto quest'uomo. Sì, è un mito veramente dello sport italiano, non solo della pallavola, della pallavolo. Sarò brevissimo, volevo parlare delle ipotetiche cessioni di Pato. Sì. Secondo me, non so se siete d'accordo anche voi, secondo me è stata la mancata cessione, secondo me è stata veramente una disfatta soprattutto per lui, per il giocatore. Secondo me se aveva un po' di carattere, sicuramente un grandissimo campione, però se avrebbe avuto un po' di carattere doveva accettare un'altra squadra che non è il Milan. Sì. Perché il Milan secondo me si sente molto protetto, lui ha bisogno di questa protezione, e invece doveva esplodere in un'altra squadra. Sì, è un po' quello che dice anche Andrea Zorzi. Guarda, no? Se ha carattere può fare così Pato, lo può fare ancora. Dice, io non voglio restare a Milan, gioco da Dio. In questa stagione vi faccio vedere che sono capace, sì. E poi me ne vado. Sì, oppure può essere un discorso simile a quello di Kakà che disse no al Manchester City, ma perché? Perché poi mi volete cedere, allora vado dove dico io, vado al Real Madrid. Il Paris Saint Germain in questo momento equivale un po' a quel City cui Kakà disse di no, no? Quindi può essere anche un discorso di questo tipo. Non è una preclusione assoluta a lasciare il Milan in cui è protetto, ma è una preclusione nei confronti di una squadra che è ancora in fase di costruzione. E comunque, con lo sguardo di Pato in questo caso, lui ha la possibilità, dopo questo ambaradan di dire, oi, io giocare a calcio sono capace e ve lo dimostro, ci provo. Provano a fare gli errori che ho fatto finora. Questo è ciò che a Pato spetta. Tutto il resto non lo riguarda, anche se effettivamente meritevoli di un'analisi un po' più approfondita magari. Marco, allora dunque eccoci qui. Buonasera, volevo parlare degli sport riportati al di fuori del loro ambiente naturale e ricordare quello che è stato fatto negli ultimi anni per il golf. Sì. Il golf recentemente viene giocato a Firenze da Pontevecchio su dei green posti sull'Arno. Anni scorsi è stato giocato in centro Milano con delle buche costruite apposta in via Dante, piazza Cordusa e via dei Mercanti. Sì. Negli anni scorsi è stato giocato sugli spalti delle mura di Lucca. Credo che, tra l'altro e tra parentesi, negli ultimi anni l'Open d'Italia giocato vicino a grandi città come Torino e Milano ha sicuramente avuto un successo di pubblico notevole. E lei come valuta queste esperienze? Molto positivamente. Molto positivamente, perché in uno sport che sicuramente non è tra i più seguiti in Italia e che ha comunque molti praticanti in giro per il mondo, e l'essere portato così vicino a un pubblico di così può essere estremamente utile di questo. Adesso ho perso la comunicazione, ma abbiamo capito praticamente tutto. Cosa dici? Ti racconto una cosa che ho visto un paio d'anni fa. Vai. In uno dei tanti canali su Sky. Vai. Un signore ricchissimo, ma ricchissimo, si è fatto costruire una nave grandissima. Sì, certo, ricchissimo. Era molto... Come si faccia a costruire una nave piccola? Lui era molto appassionato di golf. Quindi nella parte dietro ha lasciato uno spazio abbastanza grande con il bordo molto basso, non so come si chiamano i muri delle quelle laterali della barca. Dopo aveva uno staff molto numeroso, certo, che col tender andava in giro a distribuire dei piccoli salvagenti numerati con le buche. Sparare le palline in mare? Esattamente. Dai. Alla perversione non c'è fine, neanche rimedio per la... E guardava lo schizzo quanto era vicino, così poteva essere più o meno felice del tiro che aveva e fatto. E poi sotto c'erano i sommozzatori che andavano a recuperare la pallina. 800 24 00 24, numero verde. Andrea ricorda come ricorda l'esperienza degli All Blacks a Milano, che ti ricorderai anche tu perché ha fatto scalpore. Stadio esaurito, ma ciò nonostante la squadra di Milano non se la fila nessuno. A proposito di grandi eventi che hanno un effetto volano limitato, come secondo me non può essere altrimenti, insomma non esiste dire vengono gli All Blacks a Milano, dal giorno dopo tutti giocano a rugby. È stato un grande evento. Adesso pare che stiano organizzando la nuova amichevole con gli All Blacks a Napoli. Sì, ma questo lo trovo corretto, cioè sono esperienze che secondo me hanno una ragione di essere precisa, cioè portare comunque questi grandi spettacoli a grandi platee, a grandi... L'NBA che gioca in Italia una partita, sei il grande campione e via dicendo. A proposito, parlavi di NCAA e di partita inaugurale. Sì, sulla nave. sulla Carl Vinson, la famosa portaerei americana, insomma, la partita inaugurale di questa stagione dell'NCAA con l'NBA che era ancora chiusa, venne giocata lì con un ritorno mondiale clamoroso. Solo tu non te lo ricordavi, eh? No. Posso dire? Sì. Non te lo ricordavi, soltanto tu. Chissà dov'ero. Chissà dov'eri. Eri via. Eri a fare tracce di sport. Dunque, adesso, saltando di pane in frasca, come facciamo sempre con grande piacere, voglio chiederti, Andrea Zorzi, qual è stato il tuo rapporto con le figurine da ragazzo? Bambino. Ho fatto un po' di collezioni delle calciatori. Non ho mai finito un album. Mai? No, mai finito. Il cielo manca. L'ho fatto anch'io, mi ricordo molte volte. Mio figlio ha fatto un po' di collezioni di figurine, che non ha mai finito un album, però è un oggetto che mi è molto caro. Ti sarebbe piaciuto finire in figurina? Cioè, l'album delle figurine dei pallavolisti. Dunque, credo sia stata una sola edizione. C'è stata, non ha avuto grande successo. Però sai, la Panini poi era anche uno degli sponsor storici della pallavolo, e quindi intorno agli anni 90 hanno fatto un paio di tentativi. Quindi sei stato in figurina, la figurina di Andrea Zorzi. Secondo dirmi che non ce l'hai. No, io non ce l'ho sicuramente. Secondo me c'è, ma non ci devo ripensarci un po'. Ce la facciamo mandare. Non c'erano i miei tempi, neanche i tuoi, tutta quella pagina libera per il mercato. Antonio Allegra, direttore commerciale della Panini, nostro amico, buongiorno, anzi buonasera. Buongiorno a lei, un saluto anche a Zorzi e a tutti gli ascoltatori. Ce l'ha la figurina di Zorzi, magari negli archivi? Verifico, a questo punto verifico, è impegno personale. Certo, perché questa io non la sapevo. Secondo me la domanda che le faccio tutti gli anni, quando esce l'album, è antistorica, cioè che cosa c'è di nuovo? Cosa che le sto per chiedere, però secondo me è una domanda antistorica, perché quello che interessa alla collezione delle figurine è la tradizione. Ma sono vere entrambe le cose, di fatto per noi il 51esimo anno è la sfida, è l'evoluzione della tradizione. Quindi cosa c'è di nuovo? Ne dico una subito, gli arbitri. Quest'anno per la prima volta tutti gli arbitri di Serie A e di Serie B hanno la figurina. Addirittura? Esatto, e questa è una cosa nuova in assoluto, nel senso che gli arbitri sono stati ospiti dell'album l'ultima volta più di 10 anni fa, e solamente gli internazionali. In questo caso invece c'è proprio la squadra degli arbitri, così l'abbiamo chiamata, e abbiamo dato una faccia a tutti i signori che tutte le domeniche in Serie A e in Serie B arbitrano i nostri giocatori. Quindi, ma giustamente dal punto di vista commerciale avete seguito questa perversione italiana di dare così tanta importanza ai fischietti? Ma più che dare importanza, in qualche maniera riconoscere un ruolo di fatto come giocatori, sì. Quindi alla fine come giocatori sbagliano, e questo è indubbio, però sono degli esseri umani che hanno appunto una faccia, hanno una carriera, e in qualche maniera è giusto avvicinarli ai giocatori come facciamo anche con gli allenatori, sì. Quindi questo è un po' lo spirito. E poi? E poi una cosa nuova che sa di vecchio, un concorso che si chiama Strappe Vinci Companini, di fatto abbiamo riesumato le valide. Noi un po' più anzianotti forse ce le ricordiamo, anni 60 e anni 70 erano quei buoni vincenti che si trovavano nelle bustine. In questo caso dentro le bustine ci sono delle valide, delle bisvalide, delle pentavalide con tantissimi premi, tra cui il premio più ambito, quello della pentavalida, è una visita alla Panini, perché di fatto è un qualcosa che non ha prezzo, diciamo così. E quindi certo. È buffo, ma è così. Poi cosa c'è di nuovo? La figurina della Serie A è cambiata, nel senso che diventa una vera e propria carta di identità del giocatore, quindi abbiamo stampato già in figurina luogo, data di nascita, peso, altezza, nazionalità, ruolo, numero di maglia, trofei vinti in Italia, tutto già sulla figurina, e quindi diventa quasi un documento completo. È evidente che poi acquista ancora valore sull'album, poi discussione. Certo. Andrea, domanda: ma ci sono le figurine più rare di altre? Risposta sincera. Gliela faccio io tutti gli anni. Esatto. La risposta è sempre la stessa, nel senso che oggi no, nel senso che sono tutte in ugual numero, abbiamo i fogli stampa, anzi colgo l'occasione per invitare per l'ennesima volta anche Carlo Genta a venire a visitare, ovviamente va anche per Andrea Zorzi, perché vedrete che non ci sono figurine rare, però se parliamo degli anni 60 e 70 potevano esserci. E poi mi rassicuri, per favore, non avete tentazioni informatiche con l'album delle figurine, vero? La verità, l'abbiamo esplorato, siamo molto attivi su internet, sui social media, però è qualcosa di complementare, cioè la magia di aprire una bustina, annusarne l'odore e trovare la figurina mancante, toccarla con mano, giocarci, perché ancora grazie a Dio si può giocare con le figurine, incollarla sull'album, sono tutte sensazioni che nessun chip, nessun file ti potrà restituire. Quindi, ripeto, siamo molto molto attivi, abbiamo fatto album virtuali, figurine virtuali, però ma per quello che ho fatto la premessa, no? La mia domanda è antistorica, cioè, cosa cosa c'è di nuovo in un oggetto in cui ciò che conta è la tradizione, perché, perché è così, no Andrea? Lungi da me fare pubblicità, ci mancherebbe, ma i Lego e le figurine sono in qualche modo il baluardo di quel modo fisico di relazionarsi, esatto, senza entrare nel mondo virtuale dei videogame e quant'altro. Serve la materia, è qualcosa di materico e sì, senza il quale non perde gran parte del, dell'interesse. Davvero, i baluardi di un mondo che sta pian piano scivolando verso queste virtualità. Dottor Allegra, la ringrazio. No, grazie a voi, un saluto. La veniamo a trovare, eh? Intanto cerchi la figurina di Andrea Zosi, che ci tengo moltissimo io. Perché controllo. Grazie davvero ad Antonio Allegra, direttore commerciale della Panini. Un ascoltatore scrive: memorabile Stati Uniti, Unione Sovietica di pallavolo all'Arena di Verona. 90.000 persone. Non te la ricordavi? Stai perdendo i colpi, eh? Sì. Però dai. No, va bene, me l'avevo ascoltata. Claudio, provincia di Macerata, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io chiamavo per uno sport assolutamente minore, fatto in una provincia minore. Sto parlando di un evento che si sta tenendo proprio oggi, un piccolo evento di dry tooling in una palestra di arrampicata, dove abbiamo costruito delle pareti in legno sovrapponendole a quelle che c'erano per far provare la sensazione di arrampicare sul ghiaccio con tanto di ramponi e piccozze. Com'è che, mi ripeti il nome della disciplina? Allora, si chiama dry tooling, cioè una, diciamo, un attrezzo a secco per contrapporlo, comunque distinguerlo un po' da quando la piccozza invece si pianta nel ghiaccio. Quindi, una disciplina vera e propria che ha delle gare sue tutte particolari, in genere mixate anche con un po' di ghiaccio, ma viene fatto praticamente, si arrampica con ramponi e piccozza utilizzando le sporgenze che offre naturalmente la roccia. Ed è importata da qualche paese questa disciplina? No, si pratica in tutto il mondo, tra i più forti ci sono gli italiani, Mauro Bubu Bole, che è un atleta italiano che ha fatto storia in questo, ma ce ne sono moltissimi in tutto il mondo. Hai capito. Un saluto a Macerata, città grazie alla quale sono molto legato. Card della collezione I Bellissimi edizione Masters 1993, Andrea Zorzi, c'è la figurina di Zorro, Dante da Busto. Ecco, vedi. Hai capito. Ascolta, ma chi lo vince il derby domani, Andrea? Non ne ho idea. Non hai idea. Non ne ho idea. Il Milan ha una grande occasione per affondare l'Inter, l'ha detto anche oggi Allegri. Abbiamo una grande occasione per rimettere l'Inter fuori dai giochi. Ranieri da parte sua ha detto: vincendo torniamo protagonisti, torniamo da corsa anche per il campionato. Un bel pareggione, come lo vedi? Sì. Tant'è. Ma messo a cos'è la penultima decisione dell'andata, vero? Sì. Era piuttosto interessante perché era pensata per essere quella che poteva decidere la sorti. E forse non deciderà le sorti dello scudetto quest'anno. Sì, un pareggio, dai. No, mi spiace per insomma, la vigilia del Milan è stata non semplicissima, oltre che per questioni di mercato, anche per Gattuso, hai sentito, poveretto, ricaduta, e quindi dovrà star fermo ancora un mese, di nuovo problemi all'occhio. Veramente un calvario quello di Rino. Però c'era anche una sorta di, come dire, motivazione paradossalmente rassicurante, cioè almeno hanno capito con precisione di cosa si tratta. Esatto. E anche possono... detto: per 4 mesi abbiamo curato una cosa sbagliata, Gattuso, oggi. Può succedere anche questo. Andrea, ti ringrazio. Sabato ci sei? Dunque, sabato ne abbiamo... Ah, non so neanche quanti ne abbiamo oggi. Oggi 14 più 7, arriva... 20, 7, più 7, 21. Noi si arriva a sera. Ci si prova a arrivare a sera. Esatto. E poi domani si guarda il giorno e il numero. E poi domani si vedrà. Comunque grazie ad Andrea Zorzi, a Giorgio De Luca in redazione, a Carmelo Lauricelli in regia. Con lo sport naturalmente torniamo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 7, provando a capire cosa sarà successo sui campi di Serie A e aspettando insieme il derby. E poi domani sera dalle 8:30 alle 9 con Palla a Spicchi. A proposito di basket, vi do la notizia della vittoria di Cantù sulla Virtus Bologna, anticipo di questa ultima giornata del giro d'andata e partita che si è appena conclusa. Buona serata a tutti! A tempo di sport.